La scorsa settimana abbiamo cominciato la nostra serie di puntate parlando del patolli, un gioco di derivazione azteca praticato in Centro America e severamente proibito all'epoca della colonizzazione spagnola. Questo gioco balzò all'attenzione degli antropologi dell'Ottocento perché è straordinariamente somigliante a un altro gioco praticato in India, il pachisi. All'epoca si riteneva di fondamentale importanza cercare di capire da dove e come avesse origine la cultura di un popolo e le pratiche culturali che la contraddistinguevano. Col tempo però questo genere di interesse andò scemando, diventando più urgente per l'antropologia capire come possono interagire aspetti culturali di una stessa civiltà. Si indaga, per esempio, il come e il quando si gioca un determinato gioco e se gli oggetti del gioco, quali pedine, tabelloni, dadi, eccetera, richiamano attraverso le forme e i colori la simbologia e la mitologia propri di quella civiltà. Per chiarire meglio questi concetti, il pachisi, presunto gemello del patolli, rappresenterà un caso illuminante. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla seconda puntata di Bim Bum Bale Giù. Io sono Francesco e questa è Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Come avete sentito dall'introduzione, quest'oggi parliamo del pachisi, il gioco nazionale indiano. Per parlarci di questo argomento abbiamo contattato la dottoressa Irene Salerno, antropologa culturale presso il Museo d'Arte Orientale Giuseppe Tucci di Roma, curatrice con la dottoressa Laura Giuliano degli apparati didattici della mostra Giochi e giocattoli antichi dell'India, presso il Museo del Divino Infante di Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Per prima cosa abbiamo chiesto alla dottoressa Salerno quanto è vecchio il gioco del pachisi e se è vero che veniva giocato ai tempi del Mahabharata, il racconto di epica indiana risalente al IV secolo d.C. Allora possiamo dire che il pachisi è senz'altro tra i giochi più antichi e più longevi dell'India, anche se le sue origini rimangono piuttosto oscure. Le più antiche testimonianze che abbiamo su questo gioco lo fanno risalire al XVI secolo e sappiamo che proprio in quest'epoca il celebre sovrano mogul Akbar, che amava moltissimo il pachisi, addirittura aveva fatto realizzare una grande scacchiera sul pavimento del cortile del suo palazzo e si dice che fosse solito utilizzare proprio delle persone, i suoi cortigiani, come delle pedine umane. Ecco, proprio questi scacchieri, diciamo monumentali, rappresentano in realtà le più antiche testimonianze che abbiamo circa l'esistenza del gioco, che comunque è da notare era già ben noto ed affermato nel subcontinente indiano nel momento in cui Akbar vi si dedicava, come ci viene testimoniato dallo storico Abu Fazl. Quanto poi alla menzione del gioco nel Mahabharata, è vero che il poema epico menziona un gioco di dadi che si è pensato potesse essere il pachisi, però secondo le analisi, gli studi più recenti, questa ipotesi è da ritenersi in realtà erronea. Bim Bum Bale Giù! Radio 110, Bim Bum Bale Giù, seconda puntata. Parliamo di pachisi, il gioco nazionale dell'India. La dottoressa Irene Salerno del Museo d'Arte Orientale di Roma ci sta raccontando di questo antico gioco, le cui tracce risalgono fino al XVI secolo. La redazione di Bim Bum Bale Giù ha fatto alcune ricerche a tal proposito ed ha trovato, in un articolo risalente al 1892, intitolato Games Ancient and Oriental and How to Play Them, scritto da Edward Faulkner, un brano che racconta proprio come si giocava al pachisi presso la corte del sultano Akbar. Il Gran Mogol giocava a pachisi in una maniera davvero regale. La reggia stessa, divisa in quadrati rossi e bianchi, era trasformata nel tabellone, con un'enorme pietra sopraelevata al centro. Da quel punto, Akbar e i suoi cortigiani giocavano la partita. 16 giovani schiave provenienti dall'harem, vestite con colori diversi per ciascun giocatore, rappresentavano le pedine e si muovevano nelle caselle a seconda dei lanci dei dadi. Si dice che il re ci avesse preso talmente gusto a giocare in grande stile che si fece costruire una corte per il pachisi in tutti i palazzi, di cui si possono ancora rinvenire delle tracce presso Agra e Allahabad. Nel palazzo palazzo di Agra c'è questo enorme tabellone per il pacisi, con le caselle di marmo intarsiato, dove gli imperatori di Delhi giocavano con delle pedine vive. Un tabellone del genere si trova anche in una delle corti del palazzo di Delhi, ma fu distrutto durante disordini a causa dei moti del 1857. Radio 110, Bim Bum Bale Giù. Stiamo parlando del pacisi e della sua storia. Abbiamo ascoltato il racconto di come si giocava presso la corte del sultano Akbar nel XVI secolo, la prima attestazione di questo gioco a nostra disposizione. Prima di raccontarvi le regole del gioco e di ascoltare la voce della dottoressa Irene Salerno, volevamo sottolineare un altro aspetto riguardo a questo gioco, e cioè la sua diffusione in Europa durante il periodo coloniale. Nel Regno Unito il gioco venne pubblicato per la prima volta nel 1862 con il nome di Ludo, e in seguito commercializzato anche in Germania a partire dal 1910. Il titolo tedesco viene tradotto in italiano come Non t'arrabbiare, e con questo nome diventerà celebre anche nel nostro paese. Adesso però lasciamo la parola alla dottoressa Salerno, che ci spiega quali sono i rapporti tra il pacisi e la cultura indiana più in generale. Il pacisi è un gioco famosissimo e popolarissimo dell'India, ancora oggi molto praticato, tanto che si è guadagnato proprio il titolo di gioco nazionale dell'India. Addirittura in alcune miniature, ad esempio mi viene in mente, ce n'è una molto bella custodita presso il Metropolitan Museum, vengono rappresentati Shiva e la sua consorte Parvati, quindi la coppia divina, che è intenta a giocare proprio al gioco del pacisi, e ciò chiaramente ci avverte della grande rilevanza sul piano culturale che questo gioco ha sempre avuto. Ecco, sembra che in passato il pacisi fosse legato alle casse più elevate, mentre attualmente esso ha assunto una connotazione che potremmo definire come trasversale, ecco, proprio al sistema delle caste, per cui attualmente viene praticato da tutti. Per quanto poi riguarda, diciamo, il legame con la cultura, si deve considerare a livello generale che, proprio come tutti i giochi, anche il pacisi è proprio emanazione della società che lo ha prodotto, come tale ovviamente ne riflette la cultura e i valori. Si possono intravedere ad esempio dei riferimenti simbolici nel gioco, che però non sono esclusivi del pacisi, ma rimandano ad un simbolismo più generale. Mi riferisco ad esempio al principio duale, che si riflette nell'impiego delle coppie dei giocatori, principio che è noto in moltissime culture del mondo, da Oriente a Occidente, e quindi non solamente in India. Altri simbolismi poi prodotti dalla cultura, che più direttamente si legano proprio all'ambito hindu, sono relativi ad esempio al numero dei giocatori che serve per giocare. Abbiamo le due coppie, cioè quattro persone oppure tre giocatori. Ecco, in riferimento ad esempio al numero 4, quattro giocatori, quattro pedine che vengono utilizzate da ciascun giocatore, si deve fare riferimento sicuramente al motivo del Chaturmukha, del dio dei quattro volti, alle quattro direzioni dello spazio e così via, che ovviamente non è quest'ultimo un tema esclusivo della cultura indo, ma che comunque ritroviamo in maniera molto forte in questo contesto. E poi l'importanza anche del numero 3, cui ho fatto cenno, numero che appunto è fortemente ricorrente nella cultura hindu. Abbiamo infatti la Trimurti, come è noto, abbiamo i tre mitici passi del dio Vishnu di vedica memoria con i quali il dio crea il mondo. In sostanza questo numero, come anche accade in altri ambiti culturali, viene a simboleggiare la perfezione, e si collega ovviamente al motivo del triangolo, che in combinazione appunto in vari modi è alla base degli yantra, insomma quei diagrammi, quelle figure geometriche così importanti nella cultura hindu. Bim bum bale giù! State ascoltando Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Il programma è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Io sono Francesco e la voce che avete appena ascoltato è quella della dottoressa Irene Salerno, antropologa culturale presso il Museo di Arte Orientale di Roma. La dottoressa ci ha introdotto il discorso dei rapporti tra il gioco del pacisi e della cultura indiana, e di quegli elementi che il pacisi riprende e ripropone come caratteristiche proprie. Ma quali sono le regole del pacisi? Vi proponiamo adesso una scheda che ve le racconta in modo sommario. Il giocatore prende posto su uno dei bracci del tabellone a forma di croce greca. Quelli che si trovano su due lati opposti costituiscono una squadra. Il rosso e il nero devono stare contro il giallo e il verde. Il pacisi si gioca usando come dadi sei conchiglie, di un tipo particolare, la ciprea. Il numero dei punti dipende dalla quantità di conchiglie che cade con la fenditura rivolta verso l'alto. Ogni lancio consente al giocatore di far avanzare una pedina di tante caselle quanti sono i punti indicati dai dadi. Se un giocatore ha diritto a più lanci di seguito, può spostare una pedina diversa a ogni giro. Il giocatore con il punteggio più alto comincia. Le pedine si muovono in senso antiorario lungo i bracci della croce. Durante il percorso attorno al tabellone, i pezzi possono essere mangiati, salvo se si trovano nelle caselle rifugio, contrassegnate da una X. Un giocatore mangia la pedina dell'avversario quando finisce sulla stessa casella dell'avversario. La pedina mangiata viene tolta dal gioco e torna al punto di partenza, mentre il giocatore che ha mangiato ha diritto a un altro tiro. I giocatori possono difendere le loro pedine mettendone due nella stessa casella e formando così barriere che bloccano il passaggio delle pedine avversarie. Inoltre, nella sua versione di squadra, i giocatori possono strategicamente piazzare le barriere a protezione delle pedine del proprio alleato. Inoltre, può capitare che un alleato si trovi in ritardo rispetto al suo compagno. In questo caso, esistono delle strategie di attacco e difesa volte a ostacolare o a favorire il gioco delle pedine rimaste indietro. Compiuto l'intero percorso, esse devono salire per il corridoio per raggiungere la casa, ottenendo con un colpo solo il punteggio esatto che glielo consenta. Vince chi per primo compie l'intero percorso con tutte le sue pedine, collocandole al loro posto all'interno del corridoio. Bim bum bale giù! Radio 110, il programma che state ascoltando è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Abbiamo appena ascoltato quali sono le regole del gioco del pacisi indiano. Chi ci ha seguito nella puntata precedente avrà certamente notato l'incredibile somiglianza con le regole del gioco del patolli centroamericano. Adesso ascoltiamo un altro estratto dall'intervista alla dottoressa Salerno, a cui seguirà un'altra scheda che ci spiegherà come si costruisce a casa, con materiale di facile reperibilità, tutto l'occorrente per giocare a pacisi. Poi anche nei colori che vengono utilizzati per dipingere le pedine possiamo scorgere delle note simboliche, ad esempio il giallo e il rosso si collegano alla luce, al fuoco e vengono quindi a denotare, diciamo, un simbolo di creazione, laddove invece il nero, che è anche un altro colore usato per le pedine, va a rappresentare il buio, la tenebra, l'aspetto oscuro del tremendum, in un certo senso, che connota il divino nel contesto religioso hindu, anche nel caso di divinità più manifestamente benevole. Un altro dato poi su cui volevo soffermarmi è la singolare diffusione di giochi del tutto analoghi al pacisi in contesti geografici e culturali assai diversi, che in un certo senso ci parla di un simbolismo molto forte sottostante al gioco. Per esempio, si è a lungo discusso della supposta comune origine del gioco del pacisi e del patolli, quest'ultimo noto nella cultura azteca, e infatti il patolli mostrava delle somiglianze veramente impressionanti con il pacisi, dalla forma dello scacchiere a quella delle pedine, al loro numero, tanto che tanti antropologi del passato si erano interrogati in maniera molto, molto intensa sulle ragioni di questa somiglianza, senza peraltro poter mai dimostrare alcun reale legame di derivazione tra questi due giochi. Chiaramente questo fa pensare a quanto diceva l'antropologo Lévi-Strauss a proposito dell'esistenza di proprio categorie simboliche che egli riteneva invarianti da cultura a cultura, che vanno a configurare proprio una sorta di struttura dello spirito umano. Infine, fortemente simbolica è anche la forma, diciamo, del cosiddetto scacchiere che serve per giocare al pacisi, che ovviamente rievoca una croce. Ecco, questo tema dell'incrocio, del crocicchio, è anch'esso al centro dell'universo simbolico di molte culture, non solo quella hindu, e che evidentemente troviamo appunto anche in questo contesto. Il pacisi generalmente è confezionato con stoffe ricamate. Per eseguire una scacchiera in feltro, stendere una striscia arancione di 75 cm x 15, poi cucire altre due strisce arancioni delle dimensioni di 30 cm x 15 in modo tale da ottenere una croce che rappresenti la base della scacchiera. Sistemate un quadrato blu di feltro di 12 cm per lato al centro della croce, così che i quattro bracci sembrino spuntare direttamente ai suoi lati. Sovrapporre quattro strisce rosse di 30 cm x 12 ai quattro bracci arancioni della scacchiera. Centrare le strisce in modo che il bordo arancione intorno alle strisce rosse risulti sempre della stessa larghezza. A questo punto, disporre in ordine alternato 48 quadrati di color porpora di 4 cm di lato sui quattro bracci rossi. Per indicare le caselle rifugio, cucire o ricamare un cordoncino ornamentale a forma di X. Per realizzare le 16 pedine si può utilizzare il materiale che si preferisce. L'importante è la distribuzione dei colori. 4 saranno in rosso, 4 in verde, 4 in giallo e 4 in nero. Per quanto riguarda i dadi, esistono due varianti del gioco. La prima si gioca con 6 conchiglie della specie delle cipree. La seconda, detta Chausar, si gioca con 3 dadi oblunghi a 4 facce. I dadi oblunghi si possono costruire con pezzetti di legno di centimetri 8x2x2. I punti 1, 2, 5 e 6 che figurano su ciascuno dei lati si possono ottenere con inchiostro colorato oppure incollandovi sopra dei tondini di carta. Questa è Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Siamo su Radio 110, la web radio dell'Università di Torino. Stiamo parlando del gioco indiano del Pacisi. Ne parliamo con la dottoressa Irene Salerno, antropologa culturale presso il Museo d'Arte Orientale di Roma. La dottoressa Salerno ci ha spiegato sotto quali punti di vista il gioco del Pacisi riprende elementi, anche profondi e di derivazione religiosa, nella sua struttura e nell'equipaggiamento di gioco. Abbiamo chiesto inoltre alla dottoressa qual è la considerazione di cui gode la pratica del gioco e dell'azzardo in India. Generalmente vengono considerati proprio appunto i giochi d'azzardo, tutti quei giochi in cui il risultato finale è determinato solamente, quantomeno principalmente dal caso. Non so, vengono in mente le scommesse, le lotterie, insomma di epoca moderna. In tal senso non potremmo considerare il Pacisi come un gioco esclusivamente d'azzardo, perché qui grande importanza la ha proprio l'abilità, la velocità, la strategia, in un certo senso anche la genialità del giocatore, no? E delle sue mosse. E c'è inoltre una considerazione importante da fare circa il legame tra la cultura indiana e il gioco d'azzardo, che proprio nel contesto in ambito hindu viene connotato in maniera molto negativa. Nel Mahabharata, ad esempio, e questo anche per ricollegarsi al lancio dei dadi, un principe della stirpe dei Pandava perde addirittura il suo regno a causa proprio del gioco d'azzardo, a causa di questa passione sfrenata per i dadi. È proprio ancora il Mahabharata che ci ammonisce dicendo che il gioco dei dadi manda in rovina ciò che non è stato ancora divorato, e andava avanti dicendo che le donne, i dadi, la caccia e il bere sono tramandati come i quattro vizi che rampollano dal desiderio, mandando in rovina appunto e togliendo all'uomo ogni prosperità. Non di meno però io, ecco, ritengo importante menzionare il fatto che l'India ha saputo trasmetterci anche un'immagine molto positiva del gioco, anche se appunto non solo il gioco degli adulti. Ad esempio mi riferisco alla concezione del gioco come metafora dell'incontro dell'anima con Dio. Si pensi al mito di Krishna, la più celebre delle incarnazioni di Vishnu, che proprio trascorre la sua infanzia e tutta la sua fanciullezza in un mondo pastorale, dedicandosi a danze con le gopi, le pastorelle, ma anche a molti giochi. Bim Bum Bale Giù. Siamo arrivati al momento conclusivo di questa puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo, su Radio 110, la web radio dell'Università degli Studi di Torino. Abbiamo parlato del Pacisi con la dottoressa Irene Salerno del Museo d'Arte Orientale di Roma. Il Pacisi è considerato il gioco nazionale di un paese, quale l'India, in cui il gioco e l'azzardo sono parte integrante della cultura e del mito, e in cui la creatività e la casualità stabiliscono un rapporto di competizione e dipendenza. Abbiamo visto come il Pacisi assomiglia al Patolli nelle sue regole di base e come questo abbia giustificato la curiosità dei primi antropologi sulla comune o diversa origine di questi giochi, nonostante l'interrogativo non abbia mai trovato risposta. Il Pacisi non è solo uno dei giochi più praticati nel subcontinente indiano, anche trasversalmente, come giustamente ha sottolineato la dottoressa Salerno, e cioè senza privilegi di casta, ma anche attraversando i confini nazionali per giungere fino in Europa con il nome di Ludo nel Regno Unito e Non t'arrabbiare, prima in Germania e poi in Italia. Ah. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Vi ricordiamo i contatti: www.110.unito.it, l'indirizzo della web radio dell'Università di Torino, dove potete riascoltare le nostre puntate nella sezione podcast del sito. Cosigiocaalmondo.blogspot.it è invece il nostro blog, dove trovare aggiornamenti e approfondimenti sugli argomenti delle puntate. Ringraziamo Elena, Fabiola e Fabio per le voci, Carlo alla regia e alla dottoressa Irene Salerno per la gentile collaborazione. Io sono Francesco, l'appuntamento è per il prossimo mercoledì con Bim Bum Bale Giù, Così gioca il mondo. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, Così gioca il mondo. Jump around to this beat, that's Golia. That's who she, oh yeah, oh yeah.